benvenuti ad una nuova puntata della rubrica Alla radice del problema. Oggi cercheremo in breve di capire l'affanno e l'angoscia della sinistra nei riguardi di questa legge elettorale che è stata appena approvata dal Parlamento. Tutta questa paura e questo livore nei confronti della maggioranza avrà pure un suo perché, probabilmente. Può darsi che sia stata una mossa sicuramente presuntuosa, magari eccessiva, quella della Casa delle Libertà, di imporre, tra virgolette, logicamente, un sistema elettorale nuovo. Ma, come spesso avviene, la sinistra si è fermata solo ad un mero slogan, un sentimento di animosità nei confronti del Premier in primo luogo e poi di tutta la maggioranza in genere, non facendo davvero capire cosa possa essere, cosa poteva essere in termini politici, diciamo, la messa in opera di un nuovo sistema elettorale. Va detto che tutti i sistemi adottati in Italia sono buoni, democratici, ma logicamente non perfetti, quindi perfettibili. Non c'è quindi nessun colpo di Stato, nessun golpe, come spesso hanno urlato a sinistra. E quindi queste inutili proteste sul cambiamento in corsa del sistema elettorale sono quanto mai superflue, perché un sistema elettorale può solo cambiare alla fine di una legislatura e non certo all'inizio, pena la immediata caduta del governo. Cercando di fare fantapolitica, però, con una gocciolina di malignità che si è infiltrata nella mia mente negli ultimi giorni, ho cercato di immaginare e formare questo puzzle mentale per riuscire a capire la vera paura della sinistra. Chi ha detto che la sinistra voglia veramente la sconfitta del Premier? E quale migliore occasione che avere ancora il cavaliere alla guida di questa coalizione di centrodestra per poter continuare, in un certo senso, l'opera di demonizzazione dell'avversario e nascondendo così le lacune interne proprie, la mancanza quindi di un vero programma e la mancanza di una vera coalizione, una coalizione che possa chiamarsi tale. Chi può dire che questo proporzionale non possa essere un boomerang nei riguardi di Forza Italia, farle perdere magari molti punti e a vantaggio di forze come UDC o dei riformatori liberali di Della Vedova? Se per puro caso, per esempio, i riformatori superassero tutti e si accostassero, diciamo, ai voti presi da Forza Italia, cosa succederebbe nella maggioranza? Potrebbe, diciamo, cambiare leader ed allora sarebbero guai seri per il centro-sinistra, perché dovrebbe fare i conti con un ritorno alla politica, dovrebbe togliere di mezzo terminologie usate per anni per denigrare l'avversario e demonizzarlo, e quindi il nascondiglio della sinistra cadrebbe in un momento, il castello di carta sarebbe spazzato via e rimarrebbero solo gli slogan vuoti e privi di senso che stiamo ancora sentendo in questi giorni. Quindi è logicamente una sinistra che non esprime pensiero, non esprime un leader forte, è senza programma, è senza un'unità di interni, di intenti, è una sinistra perdente. Oggi la sinistra è questo, ma non emerge a causa proprio di un leader a destra che paga per la propria immagine, logicamente. Per quanto riguarda poi strettamente l'approvazione di questa nuova legge elettorale, c'è da dire che io, come tanti, avrei preferito il maggioritario secco a turno unico, con scelta diretta del Premier e quindi con un presidenzialismo che avrebbe fatto anche emergere meglio la legge sulla devolution. Logicamente non si può avere, purtroppo, rimane questo proporzionale con premi di maggioranza, fortunatamente, così almeno la governabilità dovrebbe essere garantita. In ogni caso il bipolarismo potrebbe avere una brusca frenata, un'involuzione, una stasi, poco conta, però ci aspettano davvero tempi duri. Bene. Finisce qui la puntata di questa settimana. Prima di salutarvi, un piccolo avviso che riguarda l'inizio di una nuova categoria inserita comunque in questa rubrica, che riguarderà delle interviste particolari. Per ora è tutto qui, un saluto da Nilo, a presto.